sicuramente è stata un'esperienza magnifica per me, aver avuto la possibilità di giocarlo è stata una fortuna, perché è quello che ogni giocatore di golf desidera, credo. Giocare, poter giocare con quei campioni e in più giocare anche bene, proprio se unito alla perfezione. Sorprendente per te trovarti a fianco di questi campionissimi, ma immagino anche per loro, no? Trovarsi un ragazzo di 16 anni che teneva il passo. Che cosa immagino ti hanno detto? Ma mi hanno fatto veramente grandi complimenti, mi hanno detto di spero di continuare così senza guardare, senza cercare di pensare ad altre cose e a cose che vengono poi dall'esterno. Cercare di pensare al gioco, basta che i risultati arriveranno. Qua in Italia, insomma, qua no, gli appassionati di golf nostrani già immaginano di vederti prima o poi sul green insieme al grande Tiger Woods. Direi che l'occasione, tra l'altro, è anche abbastanza vicina, vero? Ci potrà essere l'occasione ad aprile al Master di Augusta che potrò giocare. Insomma, non è privilegio da tutti, no? Poter sfidare Tiger Woods nel suo regno, no? Sì, certo.